all'avanguardia con le tecniche. Oi, all'avanguardia con le tecniche. Oi, i miei strumenti sono cilo, giradischi, un mixer, testine, sure con me sicuro rosichi. Vieni meco, nesti come D, resuscitato dopo Gesù, semplice più di Zichichi, col prezzo più giusto di Zanicchi. Innanzitutto mi ama gli estremi se mi stressi, come rimedi solo sfiga e la prassi, sotto specie d'uomo. Toso le tue rime come pecorelle per la lana, inalami l'aroma, modula la tua attenzione sull'amaro che ti lascio. Oio come Balto, stupido showcase, viscido come sciogliina, stai mal. Avvistamento idiota, stadio, ultima ruota del carro. Non puoi arroccare come a scacchi, qui caschi con la faccia sulla cacca. Mangi il biscas con la cicles, esercitati. All'avanguardia con le tecniche. Oi, all'avanguardia con le tecniche. Oi, sulla sbobba del babbo, blobbo. Là sul ledro, soffisso, gabbisbo, dabbo, sul beat che so. Sbobbinati il tape e renditi conto, dico tanto stile, comprati un ovo, risparmi al fiato, zumpa uè, zumpa con mie, quando in vena di magie punno. All'avanguardia con le tecniche, sdruso come inno su magiche note di blues. Yes, yes, senso logico di gran fattanza, taffataglio corto come invisible, snack attack. Come Alessia, sa fatta pizza, l'imbazzo per un to' di lome. Melodrama, madre pedra tra le miste, sistemi da svarione. Maestro per le cerimonie, resta come nome Cantabal. Cantabal. Le tecniche. Oi, all'avanguardia con le tecniche. Oi, all'avanguardia con le tecniche. Oi, all'avanguardia con le tecniche. Oi. Rieccoci, rieccoci di nuovo in diretta, sempre sul Wombat, vostro preferitissimo. Abbiamo sentito prima un piccolo intervento che ci iniziava a introdurre a questa giornata, ci raccontava un po' il mood, come dicono le persone serie, di questa giornata. E come sempre il Wombat si contraddistingue per gli inconvenienti tecnici, ma vi vorrei tantissimo far vedere gli accrocchi che abbiamo fatto per ovviare a questo problema. Purtroppo non lo potete sapere perché siamo in un antro scuro, in una Wombat caverna, e quindi non prendono neanche le foto, cioè già è grassa se riusciamo a trasmettere. Però insomma c'è un accrocchio molto bello fatto con le fascette, un telefono. Mamma mia, bellissima, bellissima. Quindi, e va bene. Si sente malissimo il tuo microfono, sai? Ma chissà, brutta questa cosa, evidentemente c'è qualcosa contro di te che trama. No, no, no, Virgi, non ti si sente, praticamente stai parlando da sola, quindi non è una cosa bella. Ti direi di spostarti su quest'altro microfono, ok? che forse oggi comunque non va bene, cioè delle cose che tramano, sai, è Virano e tutti i sit-up palesemente, cioè io ho questa convinzione che hanno fatto piovere attraverso il programma delle scie chimiche, che come tutti sapete riescono a provocare sempre pioggia durante i cortei e fanno sempre arrivare le ambulanze che devono attraversare il corteo. E oltre a fare quello, provocano anche inconvenienti tecnici a chi cerca, poveraccio, di fare una diretta che sia una. Quindi, meglio? Sì, oh, ah, ok. Boh, senti che bomba viva. Ora. Oh, vedi, allora era quello, era il mio, è un complotto, io lo so, perché Gino non c'è, però mi ha lasciato trama. Il è un complotto. Mi ha lasciato il microfono scrauso. Io lo so, è stato lui, perché non gli ho abbastanza, cioè, capito, quando gli dai un po' di corda in senso letterale, poi a lui gli dai un po' di catena. Gliela mandato in trasferta. Gliela allunghi. Forse non tutti sanno che oggi Gino in trasferta c'ha il bracciale, quello elettronico, quello da carcerati, capito, da domiciliari statunitensi, quello dei film. Lui c'ha quello lì, che se si allontana più del perimetro, quello lì, diciamo, prescritto, suona e invia. Quindi lui, nel caso scoppiasse una bambola, comunque deve rimanere a pigliarsi le volte, perché se si certo. allontana più di tanto. Sì, noi siamo per il riutilizzo. Quindi ti sta bene, Gino, sappilo, ho fatto bene, perché mi hai comunque... Siamo per il riutilizzo dei mezzi repressivi, esatto. Oppressivi ai nostri biechi fini. Chiaro, sì. Mezzi oppressivi non no, è vero. A parte quando si vogliono usare noi. Non è vero, però va bene, adesso il microfono fa e... Quindi ci puoi raccontare un po' di cose che avevi trovato? Sì, posso raccontare un po' di cose, giusto così, per la rubrica riempiamo il tempo. E no, che mi sono resa conto, dice vabbè, ti sei svegliata, te ne sei accorta, che in realtà negli anni, insomma, c'è stato un sacco di pubblicazione sul movimento No Tav, non solo in senso così di pamphlet, di documenti, ecco, più o meno editi dai partecipanti, dai compagni che hanno preso parte alla lotta, ma anche proprio così, proprio pubblicazioni serie, insomma, roba più magari più o meno mainstream, più o meno partendo forse un po' dall'ultimo in via d'uscita, che è il Wuming, viaggio che non promettiamo breve, se non mi sbaglio, che è uno degli ultimi sull'argomento. E, insomma, sì, dopo fra l'altro vi leggeremo anche infatti, un po' di cose da Jap. Io non l'ho letto ancora, non so com'è. Però, insomma... Non si deve dire, devi dire, l'ho letto, è lo molto so, bello, ma io lo consiglio sono una ragazza, a tutti. Sono una ragazza onesta e non ce la non faccio a dire bugie, però ho letto quasi tutti gli altri, vale, dai, secondo me vale. Vabbè. Perché comunque, insomma, alcuni sono anche belli, belli tosti. E sì, vabbè, insomma, a parte l'ultimo ci sono un sacco di altre pubblicazioni che avevo segnato, ma che ovviamente ho appena perso. E, beh, sì, anche perché sì. Una cosa che possiamo dire è che veramente non si può rimproverare ai No Tav di non essere sufficientemente informati e informanti, nel senso che c'è praticamente un miliardo di parole, video, audio, scritti che fanno capire le ragioni dei No Tav e come mai ci fa schifo il progetto dell'alta velocità. E sì. Quindi, insomma, direi che ormai, dopo direi 30 anni di lotta, sì. Ormai chi continua a essere a favore di quest'opera, evidentemente lo è per malafede. Io mi sento di poterlo dire. È chiaro che negli ultimi, diciamo, 7-8 anni c'è stata anche un'accelerazione, ovviamente, no? Una risposta magari più così. Cioè, il movimento esiste da anni, chiaramente c'è tutta una sua storia, però è chiaro che negli ultimi, diciamo, 8 anni, ecco, così, insomma, gli eventi si sono susseguiti magari in maniera più veloce, più la risposta e di conseguenza la repressione è stata anche maggiore, no? Sì, quindi ecco, a fasi alterne, sì, perché, fasi alterne, come sempre, però è chiaro che insomma, dove c'è... Se si vuole partire, non lo so, insomma, se si vuole trovare delle date cardine, però chiaramente, insomma, forse dallo sgombero della Maddalena in poi c'è stata un'escalation sia ecco, insomma, nel tentativo di portare avanti i lavori, e sia ovviamente la risposta della valle è stata conseguente, ma è mai stanca, mai prova, nonostante tutti, insomma, tutti difficoltà, gli arresti e tutto quello che sappiamo. Infatti tutta la solidarietà ai compagni Notav, e tuttora stanno scontando, insomma, le loro belle beghe e insomma e le ingiuste pene. Sì, sì, direi proprio di sì. Vi invito anche, non l'avevamo ancora fatto, a consultare tutti i social Wombat, vabbè, a partire dal sito wombat.noblogs.org, assolutamente. E poi il nostro profilo Twitter, tra poco diventeremo più operativi e aggiorneremo bene anche Twitter, comunque twitter.com/radiowombatfi, la pagina Facebook facebook.com/radio-wombat-firenze e la casella di posta wombat@insiberia.net, alla quale ci potete scrivere, e anzi vi invitiamo a farlo per mandarci i vostri contributi, se volete, adesso che vengano anche letti in diretta, e darci un po' di feedback su quello che stiamo facendo e appunto in generale raccontarci anche il vostro punto di vista su questo corteo. Quindi ve lo ripeto, posta@wombat-insiberia.net, che è il metodo forse più veloce per contattarci. Sì, non sappiamo quasi mai cosa stiamo facendo oggi, un pochino meglio perché diciamo abbiamo la crew, una bella crew, esatto, che ci sostiene, ecco, ci daremo il cambio. Sì, ci mettiamo un po' a diventare operative, ma ce la faremo. Ce la possiamo fare, abbiamo capito che il corteo è partito da poco, quindi, giusto? È partito da poco, io vi invito a tenere d'occhio il sito, un po' di riferimento, ce ne sono diversi, ma insomma uno dei siti di riferimento, notav.info, e a sintonizzarvi anche su Radio Blackout, in realtà Radio Blackout, Radio Libera di Torino, sorellina nostra, ci possiamo permettere di dirlo, però certo, se rimanete sintonizzati sul Wombat, noi preferiamo comunque. Blackout la potete sentire sempre, poi insomma c'hanno quell'accento torinese che vabbè, ho capito, oggi va di moda perché c'è il corteo là, però noi abbiamo bisogno di ascoltatori, quindi basta, ascoltate noi. E vabbè, facciamo sentire un pezzo? Dai, sì. Liberiamoci. Funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday. Someday here I go falling down, down, down. My mind is a blank, my head is spinning around and around as I go deep into the funnel of love. Deep into the funnel of love. Deep into the funnel of love. Rieccoci di nuovo dopo Love Tears Apart nella versione dei Radioactive Kids. Oggi non vi diremo niente sulla musica che stiamo ascoltando. Pezzoni comunque. E non è che abbiamo tempo di fare tutto. Già a farne una cosa sola per noi alla volta è già difficile, quindi insomma. Poi siamo riusciti a far funzionare il microfono della Virgi, che comunque non so quanto questo sia bene per voi. Positivo. Però per me sì, perché comunque evito di parlare da sola. Sì, era brutto. Sono un po', cioè non ho le mie cuffiette mie personali, e c'ho quelle, queste qui base, sono un po' insomma questa cosa mi ha un po'... Ti senti un po' a disagio, un po'? Sì, soprattutto perché devo stare attaccata, vabbè, sono in una posizione un po' compromettente, un po' scomoda, ma va bene. Disagio. Un po' disagio, infatti, impantanati nel disagio è come sempre la sigla, diciamo, ecco, principe delle nostre situazioni. Quanto disagio. E leggici, cioè ci avevi detto ancora un po' di titoli. Sì, avevo un po' di titoli anche per fare onore a, insomma, questo imminente festival della letteratura, non è vero, che verrà fatto in Polveriera la prossima settimana, quindi io per rendere onore ho fatto la nerd, ho trovato un po' di titoli, come vi dicevo, pubblicazioni sul movimento Notav e dintorni. Abbiamo appena detto l'ultimo Wuming, appunto un viaggio che non promettiamo breve, e abbiamo un altro che sembra interessante da recensioni, questo I ribelli della montagna, con prefazione di Harry De Luca, che vabbè, insomma, che se ne voglia pensare, che se ne voglia dire, è stato vicino, insomma, si è schierato. Ha avuto i suoi bei problemini. Ha avuto anche, i suoi bei momenti, e quindi pare, insomma, dalle recensioni interessante. Edito, vi vorrei dire, Odoia Library, non so, credo sia una casa editrice indipendente. Altro interessante, uscito un po' di tempo fa, sempre sull'argomento. Ora, sì, quindi nel frattempo dietro di noi c'è un trasloco. Accade tutto. Sì. Questo mi sembra anche di averlo letto. A Sara Dura. Lavori in corso. Sì. Anche per qui, voi. Che comunque il titolo del libro indica anche una situazione presente. A Sara Dura, insomma, la mobilitazione della Val di Susa e insomma il lavoro per impedire la costruzione dell'alta velocità, Derive a Prodi, casa editrice Derive a Prodi, ed è di a cura, l'ho perso, scusate. Addirittura questa pubblicazione è a cura del centro sociale a Scatasuna, quindi proprio una delle realtà che più è stato coinvolto, insomma, nella storia recente e meno recente della resistenza in valle. E questo è proprio, insomma, diciamo, una visione piuttosto, un taglio piuttosto interessante fatto da loro. Quindi non è un solo autore, ma è proprio a cura della documentazione raccolta dalla Scatasuna. Quindi A Sara Dura, storia di vita e di militanza Notav, che è del 2013, Derive a Prodi. Quindi piuttosto interessante, di sicuro con un taglio piuttosto politico e personale, penso. Va bene. Altro? Per ora, altri, ma li diciamo via via. Tanto va bene. Se no, è arrivata la prima velina. Ecco, bravo. Ecco, c'è una velina. C'è una velina da Ansia Piemonte. Non la velina dalla questura, che poi sembra la gente pensa male. Una nostra velina. Noi abbiamo l'Ansia e poi abbiamo Arcorella 2000, che stasera vi risparmierò, ma insomma. Il resto dell'Ansia. Poi ci fanno anche i pop, certo. Ci fanno le super cazzole. Ci fanno i pop dalle veline. No, guarda, abbiamo veramente un livello giornalistico superiore. Ci manca lo scivolo, quello di Striscia la Notizia, poi veramente. No, manca solo che ci arrivino i bigliettini con scritto Blue Rask. Che più o meno ci siamo, Ci siamo, Sì. Però ti vuoi fidanzare, sì, no, forse, come era elementare. Ti metti con me. Sì. Insomma, ma la erano prima velina diciamo la velina. Dai, ci tiene, lui ci tiene. Per stemperare fagliela un po' la tensione e per dare un tocco di ilarità, direi che è questa, appunto, da Ansia Piemonte, che ci dice che è stato arrestato a Trieste, salvo Chinnici, per truffe a religiosi. È bene che tutti lo sappiano. Lo ha entusiasmato, ragazzi. Cioè, oggi è una gioia per lui. La voleva dire. Hanno rubato la cassetta delle offerte. Ottimo, ottimo. Poraccio. Quindi, veramente. Quanto in valle piova, e insomma, questa è una bella. Cioè, fa da contraltare. Cioè, una bella notizia. Insomma, un pari. Ho fatto anche la battuta non volendo. Qui siamo. Anche veramente... se a Trieste è apparsa su Ansia Piemonte. Darci una gioia, se no uno dice: ma una gioia, se no, ecco, è una gioia davvero. Quindi Dio 1, Valle 1, che è 1-1, paro. Bene, bene. Ma l'uno dei signori, che è la pioggia? Sì, certo, la pioggia. È quello il suo di base, certo. E tutto il resto, quello che ci fa già di base. Che adesso... Allora è un vantaggio. Decisamente. Bene, bene, bene. Benissimo. Allora, io vi leggo, prima di rimandare un po' di altra musica, così vi riposate le orecchie nelle nostre cazzate, vi volevo leggere l'altro appello tra i vari che sono usciti per lanciare la giornata di oggi. Vi leggevo anche quello apparso su Wuming Foundation, pubblicato anche questo all'indomani del lancio del corteo, quindi il 27 marzo, insomma un po' di tempo fa. E vi do anche le coordinate del sito, ovviamente wumingfoundation.com. nel frattempo ci sono delle scope che volano. No, guardate, voi non potete capire cosa supportiamo noi poveri bombati ai microfoni. False giraffe. Sì, allora vi leggo il comunicato. Un po' di serietà, per favore, poi non ci ascoltano più, che dicono che siamo scemi. Sono già le folle, ecco. Comunque. Allora, l'Assemblea Popolare del Movimento Notav chiama tutti e tutte noi a un appuntamento decisivo. È ora di tornare sulla strada, è tempo di riempire di corpi, voci, musica, bandiere e colore la statale 25, quella via che solca sagittalmente la Val di Susa, diretta al Moncenisio, e collega molti dei comuni minacciati dall'entità. Si torna a marciare come agli abori del movimento, perché dopo gli anni della Clarea, 2010-2016, i recenti preavvisi di esproprio e i blitz delle trivelle fra Rivoli e Rivalta spostano di nuovo la battaglia sui fondivalle e in campo aperto. Una mossa che la controparte ha meditato a lungo, al tempo stesso desiderandola, perché le betoniere devono fare glush glush e le ruspe vrum vrum, e temendola perché giù nella piana lor signori Sitav hanno rimediato solo sconfitte. asserragliata lassù in Val Clarea, una gola super militarizzata tra Giaglione e Chiomonte, l'entità poteva subire solo azioni di disturbo, azioni fantasiose radicali che spesso hanno messo in difficoltà e ridicolizzato l'elefantiaco apparato di sicurezza, ma alle quali non poteva partecipare l'intera popolazione contraria all'opera. In Bassa Valle è diverso. In Bassa Valle c'è il popolo, quel popolo notav che ha già fermato, fatto ritirare o costretto a rivedere diversi progetti, due dei quali giunti alla fase definitiva. Su tutti, quello ritirato dopo l'8 dicembre 2005, quando decine di migliaia di persone riconquistarono il presidio di Venaus, sgomberato manu militari due notti prima. Oggi anche la controparte riconosce strumentalmente, per lodare quello attuale, che il vecchio progetto era sbagliato, troppo costoso, troppo impattante, senza aggiungere grazie a chi fu ritirato. Le vittorie dei Notav sono, alla lettera, inammissibili. Grazie alla continua spinta dal bus della lotta, anche il progetto attuale ha perso pezzi importanti, uno dopo l'altro. Ormai non si tratta più di realizzare la nuova Torino-Lione, men che meno ad alta velocità, si continua a dire TAV, ma da anni il progetto non ha più quelle caratteristiche. No, ormai si vuole soltanto scavare un tunnel di base fino a se stesso, da Susa a Saint-Jean-de-Maurienne, e tirare su una faraonica, insensata, stazione internazionale a Susa. Il resto del progetto? Alcune parti non sono mai esistite, ad esempio la tratta francese per la quale non esiste nemmeno un progetto preliminare e altre non esistono più dopo svariati tagli che il ministro Del Rio ha chiamato intelligenti rivisitazioni. In occasione dell'annuncio più recente, Del Rio ha dichiarato: useremo gran parte della linea esistente per fare l'opera NDR, nei tempi giusti, con i costi minori e che siano davvero utili. Seleziona col cursore lo spazio qui a destra per leggere la traduzione. Ovvero, va fatto notare che del tunnel di base non è ancora stato scavato solo un centimetro. I buchi fatti nelle montagne sono cunicoli esplorativi che tutt'al più diventeranno canne di servizio. Non solo del tunnel di base non è stato scavato un solo centimetro, ma non è stato aperto nemmeno il cantiere. Tenetelo a mente quando sentirete i giornalisti asserviti e gli Stefani Espositi dire che i lavori sono a buon punto, ormai non si può tornare indietro, eccetera. Quando alla stazione internazionale sono appena arrivati i preavvisi di esproprio dei terreni, per costruire quel catafalco destinato a inutilizzo e fatiscenza, si vuole spostare l'autoporto di Susa, 86 milioni di euro per 68.000 metri quadri di ulteriore cementificazione. A Susa, Bussoleno e San Didero le risposte ai preavvisi sono state chiare e nette. Le amministrazioni locali, i comitati di lotta e i proprietari dei terreni hanno risposto picche. E così si torna a marciare, come il 23 marzo 2013, con la differenza che quel giorno si andò da Susa a Bussoleno, mentre stavolta si andrà da Bussoleno a San Didero. Negli ultimi mesi in valle e dintorni sono successe tante cose. La repressione poliziesca giudiziaria continua, la disinformazione dall'alto impazza, ne daremo conto. Per ora ci limitiamo a dire che è importantissimo essere a Bussoleno sabato 6 maggio 2017. Dai quattro angoli della penisola verranno organizzati pullman, passaggi in auto e quant'altro. Restate sintonizzati sui siti del movimento e sulle radio, direi. In un'Italia devastata dall'ossessione per la sicurezza e schiacciata dalla politica della paura, dove con il silenzio complice dei media, veramente, si attenta quei media. Ormai l'ha detto, ormai l'ha detto, ragazzi. Il sentimento, guarda, ce l'ho, ecco. Così. Dove col silenzio complice dei media si attenta gravemente alla libertà di manifestare, è importantissimo quel che scrive notav.info. Annunciamo da subito che non accetteremo questo tipo di divieti e di limitazione dei diritti alla libertà di circolazione e alla libertà di manifestare il proprio pensiero, e ci organizzeremo e ci tuteleremo per permettere a tutti e tutte di partecipare alla manifestazione. Direi così è stato. Ad ora ci parlavano di 5.000 persone in corteo. Io manderei un po' di musica, poi magari proviamo a fare qualche altro collegamento e farci raccontare ancora qualcos'altro. C'avevo il pezzo pronto? No, perché non è che sono così intelligente da essermelo preparato, no? Infatti, va bene, ora ce l'ho. A dopo. We'll be right back. of my room, that they let me out too soon, and the pills that I ate came a couple weeks too late. I've got some issues to work through. There I go again, pretending to be you, make believing that I have a soul beneath the surface, trying to convince you it was accidentally on purpose. I am not so serious. This passion is a plagiarism. I might join your century, but only on a rare occasion. I was taken up before the labor pains had ten. Encourages her. And you can tell from the full body cast that you're sorry that you asked, that you did everything you could like any decent person would. But I might be catching, so don't touch. Don't believe in your immune to gravity and stuff. Don't get me wet because the bandages will all come off. You can tell from the smoke at the stake that the current state is critical. Is the little things fine sense? The time it takes to break it, she can make up 10 excuses. Excuse her for the day, it's just the way the medication makes her. I don't necessarily believe there is a cure for this, so I might join your century, but only as a death will guess. I was too precarious, removed as a cesarean. Dopo Otis Redding, che direi ci stava comunque bene in questa giornata piovosa, sì, ma non uggiosa, ma in realtà non abbiamo grandi aggiornamenti. Il nostro corrispondente con il braccialetto elettronico come realtà... l'abbiamo già detto, poi lo rispiego questa cosa del braccialetto elettronico, perché qualcuno non era ancora arrivato. Potrebbe anche adesso... essere un po' fraintesa. No, adesso poi la spiego per bene, perché sennò sembra che dico le cose così, e dico le cose così, ma hanno anche una base. Sì, il nostro schiavo praticamente si è perso il camion di Radio Notav, e quindi ora sta correndo come un pazzo per arrivare e intervistare qualcuno per noi, però sì, questa è la versione in buona fede, la versione in cattiva fede che sta cercando di uscire dal perimetro del raggio del braccialetto o sta cercando di togliersi e di fare il furbo. Questa è lei che comunque gli vuole bene e dice vabbè, io invece più così, più da bicchiere mezzo vuoto, penso proprio stia tentando la fuga. Ma no, ma noi poi è inutile, perché a noi quando lui prova a varcare il perimetro ci suona un allarme, esatto. Vediamo la luce rossa, vediamo avvertiti. Certo. Io non ero comunque confidente nel lasciarli così. Poi hanno detto vabbè, mandiamolo. Non ero confidente perché lo conosco, lo so che poi gli dà un dito, si prende un braccio e quando lo rivedi, ciao. Per cui insomma, vediamo, magari verrò smentita. D'altra parte tornerà. È l'unico sportivo di Radio Wombat, quindi è l'unico che si è sentito di andare a fare questa marcia. Ce l'abbiamo anche un altro, ma si ferisce da solo. Sì. Lei sa chi di chi sto parlando, lo sa. Sì, quello alla mia destra. Il problema è che quest'altro sportivo è autolesionista, sportivone, si spacca autolesionista tutto. E gli piace così, e quindi è un ragazzo un po' estremo. Facciamoci del male. Esatto, sennò che gioia c'è. E quindi insomma alla fin fine è toccato mandare lui, ho capito, dai, sì, anche perché con la mia atrofia muscolare insomma, potevi venire a mandare uno storpio come me. No, sì, un culo di piombo come me, insomma, di base. Bene, l'importante è avere fiducia, sì, in se stessi. Allora, onesti. Non lo so, vogliamo altre informazioni, cose, racconti, che ci dite dalla redazione? Allora, abbiamo la notizia che Blackout non importa che ci andate perché non vi dicono niente. Comunque, beh, giustamente saranno tutti in valle. Sì, loro sanno appunto le sono loro... la scusante. Sì. Però ci stiamo ascoltando la diretta di Radio Onda Rossa, che invece un po' di notizie ci stanno dando. Non so se Marco vuoi venire a dirci cose. Sì. Allora, facciamo rapido. Questo cambio in redazione. Change di microfoni. Il gioco della sedia. Sì, volevamo farvi sentire la telefonata, ma ancora appunto lo schiavo sta inseguendo il furgone, quindi dateci un po' di tempo. Occhio che sei corto. Prendo posto. Sì, ciao amici, mi sentite? Cavi delle casse. Forte e chiaro. Si incastrano, vai. Allora, te leggevi, cioè scusa, stavi ascoltando Onda Rossa, che ha un po' di informazioni, quindi noi volevamo fare un po' un mix tra le varie fonti, giusto? Facevo un po' tutte e due le cose, con un occhio leggevo, con un orecchio ascoltavo. E in effetti Radio Onda Rossa sta seguendo in diretta il corteo in Val di Susa con un paio di collegamenti telefonici. In questo momento si è collegata, fra l'altro, con una manifestazione in corso adesso a Roma, partita da Piazza Vittoria, organizzata la carovana delle periferie, quindi Onda Rossa sta facendo questo doppio collegamento. Per quanto riguarda la Val di Susa, sono state annunciate alcune partecipazioni dai territori terremotati al movimento NoTap, passando per altro, insomma, nessun nome in particolare, alcune migliaia di persone, nonostante una pioggia battente, sono partiti da Bussoleno, stanno dirigendosi in Bassavalle. Questo è quanto abbiamo sentito per adesso. Stiamo continuando anche noi a seguire, stiamo cercando di attrezzare questo collegamento telefonico per essere anche noi presenti proprio là, belli sul pezzo. Mi è arrivata ora un'altra breaking news, che c'è un video in diretta su Facebook, sulla pagina notavinfo.notav, che appunto è stato appena messo in linea il video della diretta della testa del corteo notav. Okay. Quindi Facebook, quindi abbiamo detto Facebook notavinfo.notav, senza punto, bene, notavinfo. Perfetto. E quindi se volete anche seguire visivamente la testa del corteo, adesso sapete dove andare. Corteo, appunto, abbiamo detto partito da non molto, quanto sarà? Una mezz'ora, tre quarti d'ora? Sì. Pare appunto già molto partecipato, ma appunto se vi collegate al video vi rendete anche bene conto con le immagini. Credo sarà almeno così. Potete, insomma, anche proprio vedere che non vi stiamo raccontando fregnacce. No, siamo noi, ma ora proprio fino a dire le bugie non ci arriviamo. Insomma, è vero, il corteo c'è, è partito. E per ora ci sale, tranquillo, piove. E direi di mandare un pezzo, se non ci sono altri aggiornamenti, ci ricolleghiamo. A prego. Will they tell me you're Allora, di nuovo in diretta, di nuovo, beh, non è che ce ne siamo andati nel frattempo, in effetti, e adesso se non chiamo la persona sbagliata, sto chiamando di nuovo il nostro schiavo. Schiavo in valle. Vediamo. No, non potete capire che accrocchio. Non potete capire che accrocchio. Ora, prima o poi, chissà. Eccoci, stiamo per... Che ci dovrebbe passare Luca, Luca Ba, che ha raggiunto, quindi ce la dovremmo fare. Vediamo se lo schiavo, ecco, riesce a rendersi utile per una volta. Ma mi sembra che non stia facendo nulla. No. Bene, benissimo così. Ok, riprovo. No, proprio non andava niente. Sei connesso? Niente. Noi non sentivamo assolutamente lui, chissà. Ma guarda, perché poi queste cose dei telefoni a me proprio non mi sono mai tornate. Cioè, sono quelle cose che proprio... Sì, sono quegli acceci. So. Oggi si sarebbe fatto prima con il piccione viaggiatore, sì, di sicuro. Eccolo. Pronto? Eccoci. Ora mi senti? Io ti sento, ma ti sentivo anche prima. Secondo me eravate voi che non sentivate. Sì, perché me. Avevo il cavetto. Perché te non puoi capire, ma noi abbiamo tutto un accrocchio di... Lo so, c'è il problema dei cavetti, è sempre così. Ma magari fosse il cavetto. Non vorrei dare la colpa a nessuno. Siamo usciti da Bussoleno, siamo sempre sulla statale 24. Stiamo camminando, attorno a noi c'erano delle mucche. Quando siamo passati hanno detto chiaramente no DAB, erano 5, l'abbiamo vista. C'avevano un'espressione un po' combattiva. Sì, vedeva dalle corna, sì. e quindi niente, se volete ora provo a vedere se Luca che sta con le spalle c'ha voglia di raccontarci, magari sì. Potrebbe dirci perché stiamo andando a San Didero in maniera più precisa di come ho fatto io prima. Bravo, esattamente, era proprio quello che volevamo chiedergli. Va bene, allora ora ve lo passo. Passacelo. Sì, un attimo che deve finire una discussione. Oddio, no, non io vorremmo mai interrompere. E anche un telefono. Vai. Pronto, buongiorno. Pronto, ciao.

you down. Cause she's an evil chick. Cause she's a witch. Wow! She's got a long black hair, the top of a big black cow. Well, I know what you're thinking now. Well, you won't get far. She's gonna make you itch. Cause she's a witch. You know, yeah, do you remember that I told you so? She's gonna make you itch, cause she's a witch. Ah! Said, don't you know? Yeah, do you remember that I told you so? She's gonna make you itch, cause she's a witch. Woo! Witch! Woo! Witch! Woo! Witch! See, the storm is broken in the middle of the night. Nothing left here for me. It's washed away. The rain pushes the buildings aside. The sky turns black. The sky. Wash it far. Push it out to sea. Nothing left here for me. I watch it lift up to the sky. I watch it crush me. And then I die. Speak to me. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Ok, finisco quando la gente smette di ridere. Bellissimo. Che jingle della Madonna. Lo spottino, ragazzi, grazie, grazie a chi l'ha fatto. Veramente dei geni. Ciao a tutti. Bene, abbiamo il buon Guido. E change di speaker. C'è stato un cambio al volo. C'è cambi volanti oggi. Sì, il gioco delle sette sedie. Portiere volante oggi. Sentiamo il rimane. Allora, abbiamo avuto questo utilissimo collegamento con Luca dalla valle, ci ha spiegato un sacco di cose interessanti, utili, che magari non tutti ancora sanno. No, io per primo. Forse non tutti sapevano che, purtroppo, l'amico si ascolta e l'amico si muove in fretta, che noi ne pensiamo. E l'amico si muove in fretta non solo in valle, ma anche in territori molto vicini. Limitrofi, vero? Perché vorrei fare un allargamento di orizzonti. Così, di orizzonti e anche di un po' così, di argomento, ma poi neanche troppo, perché alla fine, insomma, la repressione nella zona di Torino e in valle, cioè tutto è collegato, nel senso, anche se non sembra, ma in realtà le lotte poi, insomma, si muovono sugli stessi binari, vero? Cosa ci racconti? Allora, purtroppo il 3 maggio, nella prestissima mattinata, diverse squadre di questura e all'alba, carabinieri, come sempre, all'alba maledetti, perché loro lo sanno che noi ci piace dormire, in tenuta antisommossa, coordinati da Digos e Rossa, hanno fatto irruzione all'asilo occupato, che insomma non tutti i più all'ascolto conosceranno, chi non lo conosce, insomma, storico luogo della rivolta torinese. E via via sono stati fatti, in realtà non è stato sgomberato l'asilo stesso, ma sono state sgomberati diverse abitazioni collegate ovviamente al circuito dell'asilo e ai compagni che vivono che tengono vivo il posto, e diciamo con un pretesto piuttosto banale è stato dato via questa operazione repressiva molto grossa, che vede almeno per ora sei tra compagni e compagni tratti in arresto, e le accuse sono di sequestro di persona, addirittura danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. E niente, sono già stati portati al carcere delle Vallette. Ci sono poi degli aggiornamenti via via che potete trovare insomma anche su informazione, altri siti del genere. E niente, questo è purtroppo per ora il bollettino dei tristi accadimenti, e volevamo riportarvelo, perché appunto sono anni ormai che in realtà tra maggio e giugno le forze dell'ordine, non so perché gli piace il periodo, provano a sgomberare l'asilo, insomma, comunque, perché è caldo e il freddo gli fa fastidio. Esatto. E comunque, insomma, tra arresti, custodie cautelari, nessuno quasi mai viene risparmiato, e quindi ecco, in generale la situazione è questa. Chiaramente oggi c'è il corteo in valle, quindi insomma l'attenzione è giusto che vada a quello, però insomma in questi giorni i compagni e complici degli interessati hanno percorso alcune vie del quartiere fino ad arrivare insomma a dei punti caldi, tra cui la sede dell'Italgas ed altre istituzioni. C'è da dire che i compagni di Torino stanno portando avanti anche delle grosse lotte contro il rastrellamento dei migranti, contro i CIE, quindi diciamo sono impegnati su più fronti, e sicuramente ecco le forze repressive, ecco, ci vanno giù dure, anche proprio per la quantità di reati che loro, ecco, sono costretti a commettere per opporsi a tutto uno stato di cose. Quindi ecco, Notav sicuramente, ma anche molto altro, è tutto collegato fondamentalmente, tutto importante. Quindi solidarietà ai ragazzi dell'asilo, con la speranza che insomma che che si possa risolvere. Sappiamo che purtroppo non si può avere fretta, ma da parte nostra tutto il nostro sostegno. Solidarietà. Sì. Assolutamente. Ecco, se volete seguire gli sviluppi di questa faccenda, per non stare a fare via, informazione ha seguito piuttosto bene, riporta tutti i vari passaggi, insomma i vari arresti, le varie misure repressive sono state attivate. Quindi questo non butta bene a Torino in questi giorni, però butta bene in valle oggi, perché nonostante il meteo sappiamo che sta andando bene. La presenza è folta. Sì, addirittura si parla di diverse migliaia di persone, quindi si era partiti a 5.000, sì, e invece 5.000. Sembra che ora siamo quasi di più. 10.000, diceva. Esatto. Quindi, bene. Poi per la questura saranno 10. Sì, sì, ovvio. Certo. 11 con Gino. 11 con Gino. Quindi, è che però è segnalato che braccialetto. E la luce al braccialetto. Quello è comodo, si sa. So, però non c'era altro modo, ragazzi. Io, a me mi è venuto in mente solo questo, perché non mi fido. So che lui tenta la fuga, non va bene. E, sì, appunto, per ora non ci sono grandi news. Il corteo scorre tranquillo, anche perché, insomma, è piuttosto variegato, ci sono diverse realtà da tutta Italia, a quanto ho capito non sono stati fermati nemmeno troppi, insomma non ci sono stati dei fermi, quindi i compagni sono riusciti ad arrivare. So che da Firenze c'era un pullman, vero? Se non mi sbaglio. Sì, penso proprio di sì. Forse. Vedi, sì. In realtà sono diventati due mini pullmini, perché ecco, purtroppo c'è stata questo lutto al K100 di un compagno, ecco, e quindi purtroppo molti erano al funerale, quindi hanno disdetto. Non lo sapevo, allora. Quindi il pullman per intero purtroppo non è partito, si sono divisi in due pullman più piccoli. Ok, comunque ci sono delle presenze anche da Firenze. Sì. Benissimo. E so che comunque in generale da tutta Italia, diceva prima Marco, anche dai territori terremotati. Anche dal sud, diceva. Sì. Dovrebbe essere una bella presenza, un po' da buona parte d'Italia. Comunque, queste date sono sempre un po' così, un po' ecco, arriva gente a tutti i posti, anche magari gente che non ha occasione di essere in valle in maniera continuativa, che però segue le lotte nei momenti in cui ci sono appunto delle date, degli incontri. I momenti clou. Poi ora si va verso l'estate, ci saranno appunto, come si diceva prima, anche fuori onda, i vari programmi per il campeggio, che è gestito ogni anno da realtà diverse, che se ne occupano. Ancora non abbiamo proprio programmi, però sappiamo che tanta gente riesce ad andare in valle soprattutto durante il periodo estivo, perché magari appunto è più facile, ci sono anche più attività e tutto, e sono sempre molto interessanti. Ogni settimana è tenuta da realtà diverse, tra cui insomma gli studenti, la Scatasuna, insomma, poi sì, tutti gli anni, sì, l'anno scorso, sembra 2 anni fa, ha cominciato il Festival dell'Alta Felicità, che ecco, è stato un momento anche un po' più così trasversale, se si vuole dire, certo, che ha permesso anche a molti che non conoscevano la situazione, insomma, che erano un po' fuori dalle lotte di partecipare. Quindi direi, se il buon Guido ci vuole mandare un pezzo, che è lì che armeggia da un po'. Andiamo con gli Assalti Frontali. Accidenti. Sei figo, indipendente. Va bene, ci sto. Wombat. Nella dignità mi specchio, nella dignità del fratello che era insieme a noi nel mucchio. Lo è lottato quando ha avuto l'occasione, non ha voltato gli occhi e questa è la lezione. A insegnare nelle scuole, nei racconti che disegnano le sere, cosa sparava in faccia quel carabiniere. Io porto come il nome di Carlo Giuliani, noi facciamo la storia mentre quelli fanno i piani, come a Genova quel giorno. Niente rumori di fondo e noi la sedia padrone del mondo. Usciti dal Carlini non torniamo indietro davvero, affronti il nemico e vedi il suo volto vero. In marcia il cuore, pompa esaltazione, una soluzione inizia quando inizia una rivoluzione. Fuma l'orizzonte, è già alto, denso e nero, è un bel dito medio alzato dentro il resto scelto. Noi siamo in ballo adesso, e lo spegni il sole se gli spari addosso. Lo spegni il sole se gli spari addosso. Siamo in ballo adesso,

misjudged and misquoted. Fell into the abyss. I must have wanted this. Another man exploded. Take the weight off your mind. Trust the voice of experience. Bye.